lago di Como, inizia quel domo che ti devasta con i suoi 38 capitoli. Nel primo si legge di un uomo che arriva pian piano, e non abbondio che un po' circospetto ritorna in città. Bravi, bravi, non te l'aspettavi, bravi, come te ne andavi, siamo i bravi, ma siamo cattivi, fatti pure il segno della croce, tanto sei da solo qui. Leggi bene questa nota che si trova nella busta a proposito di un certo matrimonio che non sa da fare. Tra Nutella e Tramaglin è un intrigo di Rodrigo. Prova a immaginare se li sposi quante cose ti può fare. Pensaci tu a parlare con Gesù. Perpetua, son disperato ragazza mia, fa che mi strai, che c'è un attimo di aritmia. Perpetua, c'è un pazzo criminale che ahimè c'era con me, ma tu non sai, o domani saranno guai per me, per te, per noi. Sai che cosa penso? Che il povero Renzo domani non glielo consento, c'è ancora del tempo, domani a mezzogiorno arriverà. È già passato un giorno, ormai è qua. La domenica mattina mi presento dal curato, la perpetua ho salutato e sono qua. Con le borse della spesa sul mandato della sposa, per sapere a quale ora si va in chiesa. Porta pazienza e si cortese, e a fine mese ne saprai di più. Io, Don Abbondio, santo Dio, furibondo che non sono altro. Lui non c'entra, io lo so. Don Rodrigo me l'ha imposto, addio. L'accolito sposa non ci fa, oh, luci, luci. Renzo, un bisogno così di svelarti un favore. Mi dirigevo stamani attraverso Cantù, poi d'improvviso vedevo spuntar Don Rodrigo che incominciava a gridare: io a te te castigo. Volgare. Oh, oh. Maiale. Uscire tutta sola mi dà tanti pensieri, l'inferno cittadino con tutti sti stranieri. Agnese, dolce Agnese, dammi un po' di cioccolata, se solo ci ripenso mi sento un po' emaciata. Eccoci giunti al capitolo terzo, capitolo che tagliamo perché tutta la storia della zecca d'Artugli è lunga e non serve a un granché. Provano i bravi a rapire Lucia, ma lei in casa non c'è. d'animo. Lucia, non perderti d'animo. Lucia, non perderti d'animo. Ah, Lucia San Siro, sarò stasera. Fuggite a Monza, che la monaca lo sa. È il posto giusto, con quella nebbia. Ti ci nascondi e ci ritroveremo là. Scrive Manzoni per i secchioni, che insoffensivi dall'assalto al vicere. Renzo si esalta nella rivolta, chi se ne frega, c'è una che frega, ma lei chi è? Bravi, bravi, non te l'aspettavi, bravi. Siamo gli altri bravi, siamo i bravi, ancora più cattivi. Fatti pure il segno della croce, tanto sei da sola qui. Ci mandò l'illuminato che ci ha chiesto di rapirti e lasciarti più sicuro, che così nessuno può sentire. Proprio come un uccellino nel castello, nel castello. Stato un po' sentire quale voto la Madonna sto per far. Non la do più se mi salva Gesù. Che cosa c'è? È che io son lì nominato col te, c'è che ero uno prepotente che ha offeso tanta gente, ma il cuore mio si pente se ci sei. Agli arcivescovi di Roma rappresento il top, e a Milano è un pezzo che ci sto, persino l'innominato me lo son cambiato, son Borromeo, per meglio del Giubileo. Ma tutti feste a favola e a Don Rodrigo in più, gli spunta un po' una bustola ed arriviamo al gru. Per tale monte i buconi ti danni e quattro fanti così l'antiche metti all'altaretto vicino a tu. Si incontrano tutti laggiù. Da una lacrima sul griso ho capito che c'ho un mese. Caro amico ti schivo, se no ti incontra con voi. E siccome sei molto malsano, al fin ti perdonerò. Renzo! Lucia! Ho fatto un voto di castità permanente, però purtroppo ho già cambiato idea, ma non posso farci niente. Vorrei entrare fra Cristoforo. Sono qua giù dietro al semaforo, il voto sciolgo volentieri, grazie ai miei superpoteri e la fede ai suoi misteri. Ma stavolta la festa è finita, fa giù il caro vita e quel guastapesse di Don Abbondio li sposa lo stesso. Ma il fatto di sesso chi vivrà vedrà. Dieci minuti.